nous allons observer la pause commerciale. À tout à l'heure. Il problema è sempre più grosso. Lei faranno il surf, è previsto sul Saint Laurent, tra poco. Giochi invernali tipici saranno il surf, il windsurf. Beh, quest'anno gli estivi c'hanno il break dance. Io avrei potuto benissimo parteciparvi, sono un break dancer. Ma dai, sì. Ho problemi a tirarmi su da terra. Non solo da terra, il problema è tirarti su, il problema è quello. Finiamola qui, va. Ho visto una cosa fare da uno. Ho visto lei che bacia a lei. No, quella lì abbia a me. Sai quando ti distendi sulla schiena e con un balzo in avanti vai in piedi? Sì. No. Mio figlio lo fa. No, dai, mio figlio lo fa. Mio figlio lo fa. Ma mio figlio ha fatto corsi di break dance. Ho capito, però guarda che devi avere un colpo di reni mica indifferente. Mio figlio lo fa. Perché lo assicuro, l'ho anche filmato un paio di volte. No, bravo. Altri sport? Di mio figlio? No, altri sport che ti vuoi occupare. So che ha tentato la via del tennis, ma. No, giochicchia, eh. Ah, giochicchia. I giovani posso giocare con la destra, con lui. Sì, vabbè. Perché? Prendiamo qui? No, va bene, non lo so. Va bene. Chi l'hai messa ieri? Eh? Chi? La musica animale. Allora, il battito animale. L'ultima di Benji. No, prima facciamo uno spazio pubblicitario. Facciamo animale. Uno spazio anche due. Pubblicitario. No, due non puoi. No, non posso, due. E poi andremo con Benji e Fede. Bene. Musica animale. Abbiate Fede che ascoltiamo Benji. Hai capito? Questa settimana alla Charcuterie Noël troverete in grande speciale capocollo Roma $8.99 la libbra, pecorino romano $12.99 la libbra, vitello macinato 5 libbre più a $4.99 la libbra, angurie intere circa 18-20 libbre a $9.95. La Charcuterie Noël vi aspetta con tanti altri speciali, telefono 323-0256. Charcuterie Noël, dove Natale è tutto l'anno. Come un venerdì sera, tanto domani è sabato. Che cosa ci faccio qui? Qui da solo con le cose mezze aperte e mezze no. Lo capisci il senso del pop? Le capisci le nuvole? È sabato sera, domani non si fa scuola, e chi se ne frega, vuoi dirmi quello che ti pare, su dimmi quello che ti pare, lo capisci il senso del pop, ci credi alle favole, I'm not afraid to Importa anche il parmigiano Reggiano Rossi, stagionato da 24 a 30 mesi. Rossi Fratelli è un caseificio di Rio Saliceto a Reggio Emilia, specializzato nella produzione del parmigiano reggiano, con una tradizione di maestri caseari che risale al 1907. Questo formaggio è realizzato con cura, seguendo le tradizioni. Parmigiano Reggiano Rossi è in vendita presso Magazzin Bertici, Alimenti e Frutteri Milano. Il caldo è arrivato, per una nuova oppure cambiare la vostra vecchia aria condizionata, chiamatemi Giuseppe Fazio di Soffage Climatizzazione Energy a 514-224-6230, preventivo gratuito, tante marche e modelli disponibili con garanzie di 10 anni. Vi offriamo anche una sovvenzione di Hydro Québec. Energain, il confort in casa tua in ogni stagione. Chiamate Giuseppe Fazio al 224-6230. 224-6230. Signor Terry vi invita alla sua grande vendita d'estate sotto il tendone. Tanti speciali, camicie a maniche corte $20, pantaloni assortiti $25, scarpe a $79.99, giacche sportive e completi selezionati $99.99, Bermudas $30 e tanti altri speciali in negozio. Abbigliamento per uomo e prezzi ridotti alla svendita d'estate del Signor Terry, 3860 Jantano Est vicino Pineuf. Signor Terry. Buonasera, buonasera. Si muove molto cavo a cantare, a doppio guardare. Si muove molto cavo a cantare, a doppio cantare. Si muove molto cavo a cantare, a suonare. Si muove molto cavo a cantare. Si muove molto cavo a cantare, a suonare. Avete l'energia, sai che è fatta così, o solo espondo un golpe e borde stramarini, illumine passando te vende poesì, a Luca benvenuto che sei Napoli, venga la roffata tutte mattine, ampressa come ce ne danza, sa chi ti dedica la Santa Maria, girando il mondo che è grande. Si muove il mondo che può cantare. Si muove il mondo che può cantare. Si muove il mondo che può cantare. L'anima mi ciù, l'anima è l'anima, ok. Tiro do guido, suona e lo capisca. Fammi sentire, musica e sciamare. Sicuro faremo piace, una cura per tutti i mali. E c'è da vedere, acqua benedetta qui nel mio bicchiere. Tra gli esperti di questa città, si muovono il mondo che vuoi suonare. Si muovono il mondo che vuoi cantare. Si muovono il mondo che vuoi suonare. Si muovono il mondo che vuoi cantare. Si muove il mondo che può suonare. Si muove il mondo che può cantare. Si muove il mondo che può suonare. Si muove il mondo che può cantare. Si muove il mondo che può suonare. Tere che tere che ta. Inter Maceragoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali. Mango, cassa da 3,5 kg a $8.99. Arrosto di spalla d'agnello a $10.99 la libbra. Olio Mazzola 2,84 litri a $9.88. Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Fion, Jarry e Longelier. Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci. La tua radio amica. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo, anche se ci perdo. E scusa se ti lascio andare via, mi mandano all'inferno. Ma non è sempre colpa mia, che non c'è nessuna, nessuna regola. Sono ancora sveglio e questa notte non va via. Siamo persi nel buio nella marea, non si vince da soli ma ci si allea. Si rapisce la notte come un'idea, quando ti senti sola che fai dove vuoi. Sei con me anche con l'alta marea. Tutto l'equilibrio non basta, per colmare la tua distanza. Serve distrarmi però non posso. Quando qualcosa si è rotto, non ti avessi avuto attorno, sarei caduto sul fondo. Ma ora mi lasci da solo, è quello che mi toglie un pezzo che non torna al suo posto. E scusa se ti lascio andare via, finire all'inferno. In fondo cosa vuoi che sia, qui non c'è nessuno, nessuna regola. E sono ancora sveglio, questa notte non va via. Siamo persi nel buio nella marea, non si vince da soli ma ci si allea. Ci rapisce la notte come un'idea, ti senti sola che vuoi dove vuoi. Stai con me anche con l'alta marea. Alta marea. Lexus Gabriel Saint Laurent annuncia le grandi promozioni di luglio. Lexus RX 350 2024, locazione a partire dallo 0,9% per 24 mesi. E Lexus NX 350 2025, locazione a partire dal 3,9% per 24 mesi. Entrambe con riduzione totale del tasso del 2%. Offerta valida fino al 31 luglio. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de l'Iès. 514-747-7777. Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana. Tranci di salmone dell'Atlantico 6,99 la libra. Gamberi cocktail Giacotti 11,99 la libra. Caffè espresso trombetta 10 capsule 16,99. Passata di pomodoro San Marzano 6 bottiglie 12,99. Costata di manzo $11.99 la libra. Mercato United Seafood. Scoprite la differenza. We'll be right back. possibilità. Sabrina. Ciao, come va? Sto pensando di andare in vacanza, ma i viaggi sono veramente aumentati di prezzo. Ti posso dare un consiglio? Guarda nei tuoi cassetti, lo sai che gli oggetti in oro o argento che non usi più valgono una fortuna? Veramente? Ah, ne ho tanti, rotti, vecchi, che non metto, anelli stretti, braccialetti, collanine, pure mia moglie ha tante cose che non usa più. Portateli qui, da Silver and Gold for Cash, e vi farò una valutazione gratuita e vedrai quanti soldi potrai avere. Buona idea, ma quando siete aperti? Dal martedì al sabato, dalle 10 alle 17, Silver and Gold for Cash al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard, con un grande parcheggio. Ah, ho pure delle cose in banca, non le metto mai, verrò da te per una valutazione gratuita. Benissimo, ti aspetto qui, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, con un buon caffè. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi. Rib steak a $8.77 la libra, cosce di pollo a $1.89 la libra, anguri e jumbo a $9.99, broccoli bianchi, viola e arancione a $1.99, pasta Barilla assortita 3 pacchi per $5, olio extravergine d'oliva Cedar 2,8 litri a $31.99. Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. Il migliore modo per trascorrere una bella vacanza in auto è di guidare una comoda e sicura Hyundai. Approfittate dell'evento Hyundai Canela Route da Hyundai Gabriel Anjou. Tasso di finanziamento a partire dal 3,49% e un ulteriore sconto di $500 su modelli selezionati. Andate a vedere la nuova Hyundai Santa Fe 2024, completamente ridisegnata e fantastica. Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Henri Bourassa Est. La residenza privata Giardini d'Italia, situata nel cuore di Saint-Léonard, invita i 65 anni e più allo spettacolo della cantante Shai Shai Shuli del programma La Voix. Con le sue belle canzoni vi farà divertire e ballare. Sabato 20 luglio alle 19. L'evento è gratuito ma i posti sono limitati. Prenotate il vostro telefonando ai Giardini d'Italia al 514-253-5650 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così. Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole. Caricatore del giorno, poche ma buone, quello di Sacha Plow, due membri dello staff più intimo di Joe Biden nell'ufficio ovale, che stanno cercando Joe Biden, era qui due minuti fa, ma signor Biden, in realtà si vede davanti alla scrivania una specie di fantasma trasparente, che è appunto lui, Joe Biden. Caricatura di Sacha Plow nella Press Plus di questa mattina. Le Devoir, tragica caricatura di Godin, ripresa perché Godin è in vacanza. Tutti uguali in tempo di guerra. Siamo tutti uguali in tempo di guerra. In realtà sono due bilance, cioè una bilancia con i due piatti identicamente pesanti e sono pieni di vittime. Siamo tutti uguali davanti alla guerra. E la caricatura di Moudakis, la fiducia di Chrystia Freeland, che dice il primo ministro ha espresso la piena fiducia nei miei confronti, e si vede dietro di lei che sta facendo questo annuncio il primo ministro attaccato alle ginocchia di Carney e sta cercando di attirarlo verso il Partito Liberale. Ci sono molte voci a tal proposito. E infine la caricatura del Toronto Sun di questa mattina, invece, il leader del Partito Conservatore, che Pierre Poilievre, che ha in mano un'ascia che sta scagliando contro un obiettivo che in realtà è il simbolo di CBC Radio Canada. Si sa che ha intenzione di tagliare considerevolmente i budget della compagnia di Stato per quanto concerne l'informazione. Ed è tutto. Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Tentacoli di calamari dal Portogallo, 1 kg 12,99. Gamberi dell'Argentina, 1 libra 11,99. Rapini all'asco, sacco di 1 kg 5,99. Bocconcini saputo, assortiti, 200 grammi, 2 per $7. Fettine di vitello da latte, $21,99 la libra. Mercato United Seafood. Scoprite la differenza. Stare con te è facile, un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua, come stringere forte il cuscino, mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere, come sei che mi trascina verso te. E io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero. E tu mi sposti i capelli che scendono giù, giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra nel sereno d'estate, farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezzanotte, fa che mi trascina verso te. Io non lo so se stanotte morirò. Tra le 1, 2, 3, alza il volume nella testa, e qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, e qui dentro la mia festa, baby. Perdermi cani che abbaiano per dirmi che sono tornata. Mi manca l'odore dell'erba bruciata. Ma dimmi tu chi sei. Ed ora la situazione del traffico. L'ora di punta, almeno sulle strade, non necessariamente gli aeroporti, è stata ben tranquilla questa mattina, lo è tuttora. Ovviamente l'unico rallentamento rimane sempre il tunnel Ponte Louis Polite La Fontaine, leggermente rallentato da Saint-Michel a Descaries a Singhiozzo, la Met West. Descaries Nord, l'ultimo tratto vicino alla Metropolitaine, così come la Metropolitaine Est, e anche l'uscita del Ponte Samuel de Champlain a quest'ora è alquanto intasata. Per il resto tutto scorrevole, prudenza e molta pazienza, mi raccomando. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Giornale radio CFMB 1280. 9.01 in questo giorno di venerdì 19 luglio, ecco le principali informazioni, parlando appunto degli aeroporti. Iniziamo con questi aerei rimasti a terra, la coda negli aeroporti, problemi di telecomunicazioni con le reti televisive, la borsa di Londra in tilt, insomma nelle ultime ore si moltiplica il numero delle aziende che segnalano guasti o disservizi. Il colosso interessato è la Microsoft, che ha affermato che sta adottando misure di mitigazione mentre risolve il problema in un messaggio intitolato degrado del servizio. Sebbene la responsabilità e la causa di questa interruzione non sia ancora stata chiaramente assegnata, Microsoft afferma di essere mobilitata per gestire questo evento senza precedenti con la massima priorità e urgenza. Secondo Oleg Gorokovsky, fondatore della banca online ucraina Monobank, l'interruzione sarebbe legata all'interazione tra l'antivirus CrowdStrike e Windows. Molti aeroporti sono dichiarati interessati all'interruzione, tra cui quelli di Zurigo, Berlino, Amsterdam, Schiphol, tutti quelli spagnoli, mentre diverse compagnie aeree hanno segnalato problemi. Americane Delta, United e American Airlines, Air France, l'irlandese Ryanair, così come altre società indiane. Un portavoce dell'aeroporto di Berlino ha annunciato la parziale ripresa del traffico a metà mattinata, ma con molti ritardi. In precedenza aveva già annunciato dei ritardi nella registrazione. Il direttore degli aeroporti spagnoli AENA, che è il principale operatore aeroportuale mondiale per numero di passeggeri, ha segnalato possibili ritardi in un messaggio sui social network. Diversi ospedali nei Paesi Bassi hanno riferito di essere stati colpiti dall'interruzione che ha portato alla chiusura di un pronto soccorso e al rinvio di alcune operazioni chirurgiche. Il più grande operatore ferroviario britannico ha menzionato potenziali cancellazioni dell'ultimo minuto con le aziende che non potrebbero accedere a determinati sistemi di guida dei treni. E i mercati azionari mondiali anche sono crollati di fronte a molte incertezze economiche e politiche, ma soprattutto preoccupati per questo disturbo informatico che ha impedito anche agli indici delle borse di Londra e di Milano di mostrare il loro tasso di variazione al loro consueto orario d'apertura alle 7 di questa mattina. Tra le altre cose, vi consigliamo anche di contattare la vostra compagnia aerea o l'aeroporto direttamente, l'aeroporto Pierre Elliott Trudeau, dove anche lì si registrano vari ritardi, molto probabilmente soprattutto anche per gli arrivi quest'oggi. Il prossimo ministro del lavoro e delle persone anziane nel governo Trudeau sarà il deputato di Gatineau Stephen McKinnon, che sostituirà Seamus O'Regan, che ha annunciato ieri le sue dimissioni per trascorrere più tempo con la famiglia, anche se rimarrà deputato per la circoscrizione di Terre-Neuve di St. John's South Mount Pearl alle prossime elezioni. Stephen McKinnon è il leader della Camera governativa da gennaio, ha sostituito Karina Gould, che è in congedo parentale, fu eletto per la prima volta alla Camera dei Comuni nel 2015, ha 57 anni, detiene un master in amministrazione aziendale e ha anche già lavorato nell'ufficio di Frank McKenna quando era premier del New Brunswick dall'87 al 1997. La cerimonia di giuramento di Stephen McKinnon è prevista per oggi a Rideau Hall. Frank Zampino e i suoi coimputati dovranno essere processati per frode, abuso di fiducia e corruzione negli affari municipali. La Corte Suprema ha annunciato ieri che non accoglierà il ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che ha rinviato a giudizio l'ex presidente del Comitato Esecutivo della Città di Montreal e i suoi accoliti. Come è sua consuetudine, quando respinge una richiesta di ricorso, la Corte di ultima istanza canadese non ha fornito alcuna motivazione per il suo rifiuto. Il processo avrà quindi inizio, come previsto, il 15 gennaio prossimo. Le istanze istruttorie saranno discusse nella settimana del 7 ottobre e per questo processo sono già previsti 4 mesi. Ford sta rivedendo i suoi piani per lo stabilimento di Oakville in Ontario, dove invece di produrre auto elettriche a partire dal 2027, la casa automobilistica convertirà le sue strutture per produrre camion della serie F, i più venduti in Canada, a partire dal 2026. La decisione proteggerà 1.800 posti di lavoro, assicura Ford in un comunicato stampa. Da maggio lo stabilimento di Oakville è chiuso. Ford in precedenza produceva lì gli SUV modello Edge. Alla catena di montaggio lavoravano circa 3.200 dipendenti. La casa automobilistica aveva inizialmente promesso di convertire lo stabilimento di Oakville per costruire 5 nuovi modelli elettrici. Il primo di questi avrebbe dovuto entrare in produzione nel 2025. Nell'ambito del suo nuovo piano, Ford prevede di investire 2,3 miliardi di dollari per riorganizzare i suoi stabilimenti di Oakville per produrre i camioncini della serie F Super Duty, modelli attualmente alimentati a benzina o diesel. La fabbrica tornerà in funzione un anno prima del previsto e assumerà 1.800 lavoratori, 400 in più, rispetto al progetto EV Ford, aggiungendo inoltre 150 lavoratori al suo stabilimento d'assemblaggio dei motori a Windsor. Come ormai accade da più di 50 anni, quasi tutti i lavoratori del settore della costruzione appendono contemporaneamente elmetti e attrezzi al chiodo per prendersi 2 settimane di ferie in piena estate a partire da oggi. Quest'anno le vacanze della costruzione si svolgeranno dal 21 luglio al 3 agosto. Non meno di 200.000 lavoratori del settore prenderanno un congedo durante questo periodo. E infine dagli esteri, appena arrivata una notizia, il giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershovich, è stato condannato a 16 anni di prigione per spionaggio da scontare in una colonia penale di massima sicurezza in Russia, lo ha reso noto la corte citata da Interfax. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos. Corro per salvare la democrazia ed essere il presidente di tutta l'America. Alla convention repubblicana di Milwaukee è stata la notte di Donald Trump, nella quale ha accettato formalmente la nomination per la Casa Bianca. Sono sopravvissuto perché avevo Dio dalla mia parte, ha detto, ricordando lo scampato attentato in Pennsylvania. Nel suo discorso di 90 minuti, da un lato ha invitato a non demonizzare l'opposizione, dall'altro ha attaccato Biden, definendolo tra i peggiori presidenti della storia. Poi, rilanciando i suoi cavalli di battaglia, ha parlato del muro anti-migranti e sul punto ha promesso la più grande deportazione della storia americana. Intanto il presidente Biden sembra essere sempre più vicino al ritiro dalle presidenziali. Secondo l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, potrebbe convincersi presto a lasciare. Ci sono stati depistaggi, ma la verità è un dovere. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui vennero ammazzati Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sui tragici fatti del 19 luglio 1992 è intervenuta anche la premier Meloni, che ha rimarcato: il governo italiano è fortemente impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata. Per noi, ha aggiunto, la lotta alla mafia è una priorità assoluta. Il TAR di Trento, accogliendo il ricorso di alcune associazioni animaliste, ha bloccato l'abbattimento dell'orsa ritenuta responsabile dell'aggressione a un turista francese avvenuta a Dro in Trentino. Secondo il TAR, l'esame della richiesta cautelare ante causam appare giustificata e meritevole di accoglimento, sussistendo l'eccezionale gravità e urgenza di sospendere temporaneamente il provvedimento. Questa sono indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,49, il dollaro statunitense è ancora scambiato a 1,37. Previsioni del tempo. Bella giornata oggi, 18 gradi all'esterno percepiti come tali, si va a 26 al termometro, minima la notte prossima 17 e ci aspetta anche un fine settimana nell'insieme più che positivo. Prossimi appuntamenti con l'informazione a CFB sono alle 13 dall'Italia e alle 16 con i colleghi. CFB, sono 18 Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier. Per il nostro mitico mercatino del venerdì, 514 7900251 è il numero da comporre per offrire tutto ciò che la vostra fantasia vuole offrire, ovviamente all'eccezione di armi, trasporto a motore, richieste e offerte di lavoro e nel settore dell'immobiliare. Andiamo ad accogliere la telefonata numero 1, mercatino, buongiorno. Buongiorno Silvio. Buongiorno a lei signora, mi dica. Io faccio l'annuncio per una famiglia bisognosa, c'ha 3 bambini piccolini, comunque loro fanno bisogno di una cucina per riscaldare e per farle da mangiare, un letto. E la terza bambina c'ha 3 mesi, io l'ho vista, e fa bisogno di panni per cambiarla, perché questa famiglia non c'ha niente per darle. Allora io le do il mio telefono. Sì. E se vogliono richiamarmi possono richiamare al mio telefono, il 514 324 5133. Il mio nome è Anna. Anna, grazie e buon fine settimana. Lo stesso a te Silvio. Arrivederci. Bye bye. Allora, per una famiglia bisognosa che ha tra l'altro 3 bambini, si ricerca una cucina, un letto e anche dell'abbigliamento, in modo particolare per la bambina di 3 mesi che non ha nulla da indossare o quasi. Potete chiamare e fare le vostre offerte a Anna 324 5133, telefonata 1, si va con la 2. Mercatino, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, mi dica. Allora, per una mia amica c'è 5 damigiane da 52 litri, c'è 6-7 dozzine di barattoli di pomodoro, certo sono ancora ingartati, non sono mai usati, e c'è anche una macchina industriale semi-nuova. Allora, macchina da cucire? Sì, macchina da cucire industriale, sì, è nuovissima veramente. Ok. Allora, mi può chiamare al mio numero? Sì. E sarebbe il 514-729-726261. Il mio nome è Giovina, lo faccio solo per rendere servizio, che io non ho niente da vendere. Grazie Giovina, buon fine settimana. Altrettanto a voi tutti, a tutta la staff, anche a tutti gli ascoltatori. Ciao. Grazie, arrivederci Giovina. E ti lasceranno il numero se io non sono a casa, per piacere, perché chiamo una volta e poi non c'ho nessuna... Non posso corrispondere. Va bene, d'accordo. Grazie, c'è un messaggio. Ciao. Arrivederci. Allora, 5 damigiane da 52 litri ognuna, 7 dozzine di barattoli per la salsa di pomodoro, tra le quali anche dei barattoli nuovi ancora incartati, e una macchina da cucire industriale. Dovete telefonare a Giovina per questi articoli, 729-6261, dove è anche possibile lasciare un messaggio qualora Giovina non fosse in casa. Ci fermiamo. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali. Mango, cassa da 3,5 kg a $8.99. Arrosto di spalladagnello a $10.99 la libra. Olio Mazzola 2,84 litri a $9.88. Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier. Estate, tempo di vacanze, e il miglior modo per trascorrere una bella vacanza in auto è guidare una comoda e sicura Hyundai. Approfittate dell'evento Hyundai Prenella Route da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Tasso di finanziamento a partire da 3.49% e un ulteriore sconto di $500 su modelli selezionati. Fate una visita al nuovo concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, moderno e con una grande sala d'esposizione, al 12.260 Sherbrooke Est, all'est di San Jean-Baptiste. Bella pasta fresca. Quando ravioli, manicotti, lasagne, salse pronte ed altro ancora. Pastificio Sacchetto, Marché Jean Talon, 274-4443. Un piatto di pasta al giorno. Te levo male cap a tuorn. Prochain gros lot du Loto Max, 65 millions plus 8 max millions. Un gros lot pachydermique. Pachydermique, gros comme un éléphant, que tu pourrais d'ailleurs t'acheter. Il prossimo monte premi di Loto Max è di 65 milioni più 8 premi di 1 milione ciascuno. Chaussure Larry ha tutte le calzature per le tue esigenze estive. Vasta scelta di calzature per tutte le occasioni e per tutta la famiglia. Tante promozioni su sandali e ciabatte a prezzi da liquidazione. Scarpe per tutti i giorni, da ginnastica, ortopediche, eleganti, da spiaggia. Per le grandi occasioni, Chaussure Larry ha le calzature che cerchi. Chaussure Larry è al 3090 Legendre Est a Saint-Michel. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali. Mango, cassa da 3,5 kg a $8.99. Arrosto di spalla d'agnello a $10.99 la libbra. Olio Mazzola 2,84 litri a $9.88. Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Raccoglie la telefonata numero 3, Mercatino, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io vorrei sapere il numero del Giardino d'Italia. Allora deve rimanere in linea e chiamare più tardi, signora, perché per il momento stiamo facendo il mercatino. Ok, va bene. Grazie, ciao. Buona giornata, arrivederci. Allora andiamo con la telefonata numero 3. Non questa, la prossima. Mercatino, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, signora, mi dica. Come va? Bene, grazie. E lei? Non c'è male, non così c'è. Così. Così così, anch'io devo lavorare con IVA, ognuno ha i suoi problemi. Mi dica. Io chiamate per mia sorella. C'è una tavola da cucina. Sì. Con quattro sedie di legno. Se qualcuno la vuole, quanto ce la può andare a prendere. A quanto? Come? Che prezzo? Regalata. Ah, regalata, perfetto. Sì, la tavola è buona, non c'è posto. D'accordo. Come, sì. Come si chiama la sorella? Mia sorella si chiama Maddalena. Maddalena, che bel nome. Ma io ci ho chiamato un'altra volta, ma nessuno ha chiamato. Succede, signora, non posso garantire. Adesso pensano che è gratis, se la vanno a prendere. Va bene, il telefono? 325. Sì. 2561 Maddalena. Sì, Maddalena, buon fine settimana. Grazie, sono Maria. A lei è Maria, ma è Maria. Io sono la sorella. Giusto, chiedo scusa Maria. Va bene, buon fine settimana anche a lei allora. Grazie, pure a voi, a tutto quanto si FMB. Grazie signora. Ciao. Arrivederci. Allora vi auguro un buon fine settimana, signora Maria. Dunque, Maddalena, una tavola da cucina con quattro sedie in legno in regalo. Se ne avete bisogno. Beh, la dovete andare a prendere però, è Maddalena, 325-25-61, ci fermiamo. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali. Mango, cassa da 3,5 kg a $8.99. Arrosto di spalla d'agnello a $10.99 la libra. Olio Mazzola 2,84 litri a $9.88. Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Lexus Gabriel Saint Laurent annuncia le grandi promozioni di luglio. Lexus RZ 450e del 2024, totalmente elettrica. Prezzi a partire da $60.875, con incentivi all'acquisto fino a $7.000. Offerta valida fino al 31 luglio. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liès al 514-747-7777. La lingerie Ragone è fornitissima nell'abbigliamento per tutta la famiglia e nel reparto casa. Per la donna, bellissime maglie, gonne e pantaloni. Per l'uomo, camicie, magliette, pantaloni e tanto altro. Per bambini, bellissimi completi, anche per neonati. E tutto per il battesimo. Troverete sempre un'infinita scelta anche nel reparto casa. Troverete coperte di lana italiane di tutte le misure, copriletti, tovagli da tavola, coprimaterassi e lenzuola Impercal di ogni dimensione. Per uomo basta scelta di cravatte, pantaloni, camicie e biancheria intima. Per i bambini basta scelta di completi e tutti gli articoli per il battesimo. Lingerie Aragona, 3131 Legendre Est a Saint-Michel. Telefono 514 387 55 31. al telefono per accogliere la quarta telefonata di oggi. Mercatino, buongiorno. Buongiorno. Come va, signora? Non ci vale, signor Silvio. Mi dica tutto. Allora, io c'ho da vendere un fan sul muro, sopra, you know? Una recinzione. Un grande fan. Cioè, questa qua ce l'ha ancora dentro la scatola. Ah, è un ventilatore? Un'aria condizionata? Dopo c'ho tante cose da vendere. Aspetti, quindi, signora, prima il kick. Scusi, signora. Le lenzuola di King Size. Ma il primo articolo è un ventilatore? Ok. C'ho... Sì. È un ventilatore. Prima c'è il ventilatore. Sì. Dopo c'ho King Size. Lenzuola. Le lenzuola. Lenzuola. Ok. Poi? E dopo c'ho molti articoli. Ok. C'è una conca di rama. Sì. Ok. E c'ho anche delle piante a vendere. Anche delle piante, perché no? Il telefono, signora, così la gente può chiamarla direttamente. Ok, perfetto. Il mio nome è Antonietta. Antonietta. Il mio telefono è 777. Sì. 52. Sì. 32. Antonietta, buon fine settimana. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie, ciao. Arrivederci. Dunque, abbiamo un ventilatore da muro, delle lenzuola king size e anche molti articoli, tra cui un contenitore di rame e tante piante. Il tutto è venduto da Antonietta, prezzi trattabili al 777-5232. Telefonata 4, ci fermiamo. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali. Mango, cassa da 3,5 kg a $8.99. Arrosto di spalla d'agnello a $10.99 la libbra. Olio Mazzola 2,84 litri a $9.88. Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Lyon, Jarry e Longelier. Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione. Una ricetta unica, Margherita, che bontà! Ciao, sono Gio Pettinicchio. Ciao, sono Alessandra Pettinicchio. Siamo la squadra immobiliare padri e figlia con Rimax Action. Con più di 25 anni di esperienza combinata nell'immobiliare, siamo pronti ad aiutarvi nella vendita o l'acquisto della vostra proprietà. Per un'estimazione gratuita o un semplice consiglio, chiamate l'equipe Pettinicchio al 514-816-6828. 514-816-6828. Sapete che la vostra tranquillità è la nostra priorità. Intermarché La Goria.